Ci sono davvero moltissime iniziative con un respiro metropolitano, sia in consiglio comunale che in città metropolitana. L'intenzione del Comune di Bologna era lavorare anche sulla memoria, sulla riappropriazione dello spazio pubblico anche e dello spazio della figura della donna nella storia e nel contesto pubblico e cittadino. Ci sono delle collaborazioni molto interessanti anche con l'Istituto Storico Parri su questo. Andremo ad onorare la figura di Bellux, a cui dedichiamo questa edizione, anche a riscoprire figure meno conosciute ma molto importanti come Claudette Colvin, che aveva sostanzialmente fatto da apripista a Rosa Parks, rifiutando lei stessa di dare il proprio posto sull'autobus prima ancora di Rosa Parks. E Bellux, chiaramente femminista, autrice importantissima per tutto il femminismo dello scorso secolo, scomparsa purtroppo qualche mese fa, a cui dedicheremo questa edizione, ha sempre tratteggiato, diciamo, l'intersezionalità e la lotta, definendo le dinamiche che si intrecciavano nel capitalismo, nella razzializzazione delle persone, anche nelle questioni di genere, quindi una figura molto importante che ha illuminato il pensiero femminista su questi temi. Gli ultimi dati parlano di una condizione femminile ancora di grande difficoltà, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Sì, è vero, bisogna ricordare che le istituzioni europee invitavano ad arrivare al 60% di occupazione femminile entro il 2010, lo diceva Lisbona nei primi anni di questo secolo. Siamo nel 2022, questo è un paese che ha ancora il 49-50% di occupazione femminile. A Bologna siamo in una condizione molto diversa, siamo a poco più del 66% di occupazione femminile, eppure molti tratti relativi a una condizione di lavoro povero e anche precario, nei più bassi livelli, diciamo così, del mondo del lavoro, riguardano anche il territorio bolognese. Da qui il richiamo più forte sull'8 marzo, che bisogna ricordare non è una festa, è una giornata internazionale sancita dall'ONU più di 100 anni fa, e quando si ricorda l'8 marzo bisogna ricordare, anche se non si sa se è vero o se è più una leggenda, che si richiama alla mente quell'insieme di lavoratrici in una fabbrica probabilmente americana che persero la vita in un incendio perché le condizioni di lavoro non erano garantite e perché erano donne che rivendicavano diritti al pari degli uomini. Questo fatto è ancora oggi di enorme attualità. E allora penso, lo dico forte, delle più di 100 iniziative che promuovono i comuni del territorio bolognese in occasione dell'8 marzo, una giornata internazionale sentita, promossa e partecipata, dico che fuori dalla retorica di cosa devono tutte le volte, tutti i giorni fare le donne, e una volta si devono vestire in un certo modo perché così non c'è la violenza, e un'altra volta si devono formare in un certo modo per avere più occupazione, che è tempo di ascoltare quello che le donne dicono e che vogliono nelle proprie comunità. Da qui la scrittura di un piano per l'uguaglianza che il sindaco presenta nel percorso partecipato il 9 di marzo nella sede del Consiglio Metropolitano, e una attenzione congiunta al Consiglio della Città Metropolitana e del Comune di Bologna proprio sulle questioni del lavoro. Aggiungo che siamo molto felici, io lo sono particolarmente, di poter contare sulla disponibilità e l'attenzione della collega Clancy. Insieme stiamo lavorando molto su questo aspetto. Certo, questo 8 marzo è anche caratterizzato da una cosa che non volevamo, che non avevamo immaginato, come quella di una guerra ai confini dell'Europa. Siamo vicine e solidali alle donne della comunità ucraina di Bologna che si stanno organizzando in un pranzo e a che andremo certamente a trovare per manifestare solidarietà e vicinanza.